Iniziamo con la presentazione di questo libro che abbiamo collocato qui nella nostra biblioteca, tra gli scaffali, come stiamo facendo negli ultimi mesi. Questo Back to the Library è proprio all'insegna di stare di nuovo in mezzo agli scaffali, tutti belli vicini, stretti stretti, ecco, di tornare a un contatto anche fisico con le persone, potersi scambiare due parole, un commento sull'iniziativa, intervenire anche direttamente senza le distanze o le problematiche di un rapporto online, che però ci ha salvati, insomma, bisogna anche dire questo, che la transizione digitale è stata accelerata e favorita proprio con questo blocco del Covid. La mascherina, sì, vi chiediamo questo sforzo ancora di tenere un po' la mascherina per questa seduta, magari diciamo, procurare, sì. E ecco i relatori, insomma, parlano liberamente. Il libro di questa sera è un libro molto interessante che indaga un aspetto storico non conosciuto, penso sia la prima ricerca, e quindi abbiamo con noi l'autore, che ringrazio tantissimo perché viene dall'Inghilterra dove lavora, dove insegna all'università, Gianluca Fantoni. Ringrazio tantissimo Guido Margheri, presidente della sezione ANPI, che ci ha favorito in questo incontro, ci ha aiutato. Il circolo culturale dell'ANPI è molto attivo, molto sensibile e ha un rapporto veramente stretto anche con le biblioteche. Questo a noi fa molto piacere perché le biblioteche sono delle istituzioni culturali democratiche, libere, dove si entra, si viene, si chiede, si fa, si dice, ovvero c'è una collega, una mia cara amica di una vita, e poi abbiamo anche un'altra collega, insomma, quindi ci capiamo quando noi siamo innamorate del nostro lavoro, anche per questo penso, no? Questa democrazia, questo senso civico che nasce nel voler diffondere, aprire le porte, gli scaffali, i libri, perché siamo desiderose e desiderosi che tutti abbiano le stesse possibilità, tutti possano capire, crearsi un percorso e crescere in una libertà anche intellettuale che non è sempre garantita. Quindi basta, io vi lascio la parola, ringrazio di nuovo veramente il nostro professor Fantoni, Guido Margheri, presidente, tutti voi di essere qui questa sera con noi, perché anche le biblioteche vivono di queste presenze. Ecco, vi invitiamo a tornare e a frequentare sempre le biblioteche, perché per noi sono il centro, la speranza vera che abbiamo. Grazie. Grazie. E grazie a voi. Grazie alla direttrice della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, e che come al solito è disponibile a ospitare queste iniziative, a collaborare nella loro costruzione, che come sapete non è sempre facile. Quest'anno, come sapete, è un anno particolare per Bolzano, perché la competente commissione del Ministero degli Interni l'ha indicata come Città della Memoria 2022, e in diverse fasi dell'anno stiamo sviluppando alcune iniziative cercando di fare un panorama di tutta una serie di temi, anche di temi che non sono magari stati affrontati o sono stati affrontati, come vedremo poi, nel segno di una lettura storica di parte o solo di parte, e con una memoria quindi parziale. Da questo punto di vista, Bolzano Città della Memoria 22, come sapete, oltre a questa serie di iniziative, la prossima sarà dedicata a Giacomo Matteotti, ed è in corso, per chi volesse andare al Museo Civico, la mostra Volti nel Lager, con i disegni un po' straordinari di Maltagliati e dell'architetto Belgioioso. E comunque trovate poi tutto sul sito del Comune. Nel ringraziare, oltre ovviamente alla biblioteca provinciale che ci ospita, anche gli assessorati alla cultura della provincia autonoma di Bolzano, del comune di Bolzano, che hanno voluto che quest'anno fosse un anno straordinario di iniziative, anche approfittando della concomitanza con altri anniversari importanti come il 50° dell'autonomia, che quindi poi si lega ad altri temi, e come il centenario della marcia su Bolzano, che ha preceduto la marcia su Roma. Quindi siamo in un anno straordinario e particolare, e ringraziamo Arce e Centro Pace che hanno voluto con noi essere promotori di questa iniziativa. Ci siamo un po' divisi le iniziative perché ovviamente tutti non potevano fare tutto, e andiamo a ringraziare l'autore di questo libro, che è il professor Gianluca Fantoni, che, come dire, il libro che all'inizio, quando ne ho letto qualcosa, l'ho trovato in libreria, mi aspettavo un qualcosa e ho trovato invece molte più cose di quelle che mi aspettavo. Non sempre quando si leggono i libri si riceve quello che uno si aspetta, in questo caso mi sono trovato molto, molto di più. Non solo Gianluca Fantoni è uno storico italiano che lavora attualmente in Inghilterra, la Nottingham Trent University, è laureato in storia presso l'Università di Firenze, quindi tra l'altro c'è qualcosa in comune con me, che ci sono nato, ha conseguito il dottorato di ricerca in storia, attualmente in Scozia, attualmente insegna storia contemporanea, e tra le sue pubblicazioni Italy Through the Red Lens, Italian Politics and Society in Communist Propaganda Films, che, visto che tra l'altro siamo nel centenario di, l'anno dopo il centenario della nascita del PC e la nascita, nell'anno del centenario di Berlinguer, aspettiamo di vedere anche questo tradotto e magari lo inviteremo anche a discutere di questo. È anche general editor della rivista Modern Italy. E anche su questo, dopo che stamattina abbiamo fatto una lunghissima passeggiata in cui ha visto il modo come abbiamo affrontato i monumenti, in particolare quello di Piazza del Tribunale, ma anche il monumento alla Vittoria, siamo già d'accordo che ci sarà un'ulteriore serie di rapporti culturali. Quindi vedete che queste cose servono a questo. Ma tornando alla storia della Brigata Ebraica, è evidente che un editore importante come Einaudi, ricordo anche che la libreria Ubica mette a disposizione il suo tempo e il suo lavoro, e quindi è qui con questo libro, che quindi poi sarà possibile averlo con dedica dell'autore, quindi non perdete l'occasione. Storia della Brigata Ebraica, è evidente che un editore così importante si è impegnato perché negli ultimi anni questo tema ha creato tutta una serie di polemiche. E però all'interno di questo libro c'è una riflessione importante, generale, che riguarda anche noi, sul rapporto tra la memoria e la storia, sul rapporto tra uso pubblico della storia e uso politico della storia, con tutta una serie di distinzioni. Addirittura c'è a un certo punto una classificazione di 4 regole con cui si riconosce l'uso politico della storia. E credo che da questo punto di vista, quindi, questa tematica, che per noi è quotidiana, come sappiamo benissimo, per il tipo di contesto in cui viviamo, evidentemente è stata una cosa importante. E però attraverso la storia, la vera storia della Brigata Ebraica, che tra l'altro, come vedrà chi avrà la pazienza di leggere, il libro è scritto in maniera scorrevolissima, evidentemente andando in Inghilterra ha acquisito lo stile anglosassone, quindi da questo punto di vista è una bella lettura. Ogni capitolo è un pezzo di un giallo che comincia all'inizio, e come vedrete poi è interessante perché le indagini di questo ufficiale inglese, questo Barclay, e poi si scoprirà perché c'è questa inchiesta che attraversa trasversalmente tutti i capitoli. Però la storia della Brigata Ebraica, a partire dalla storia della Brigata Ebraica, il nostro Fantoni attraversa la guerra mondiale, almeno nel settore, nei settori toccati da questa storia, quindi la guerra nel Nord Africa, il Medio Oriente, la guerra all'interno del nostro paese, i temi del colonialismo e del superamento del colonialismo in quell'area, i temi del conflitto israelo-palestinese, la resistenza italiana e il rapporto con questa, e poi successivamente i temi delle polemiche del 25 aprile, dei nazionalismi che sono collegati, delle ideologie estremiste che sono collegate, ma in questo contesto storico. Allora la prima domanda, che tra l'altro è contenuta all'inizio del libro, è: perché un libro sulla questione ebraica? Sono obbligato a parlare, sì. Acceso il microfono se mi sentite. Prima di tutto ringrazio io voi per essere qua, non conoscevo Bolzano, non c'ero mai stato, città bellissima, l'ho anche trovata in un tempo splendido, diciamo, e una città che ha molto a che fare, girando appunto stamattina, ieri mi sono reso conto che voi di uso pubblico della storia ne sapete molto, insomma in questa città ce n'è molto e la storia è stata usata molto da vari regimi nel passato per veicolare certe idee e certe letture della storia. Ti dico prima alcune, tocco alcuni su alcuni punti che hai introdotto. Sì, il modo in cui è scritto il libro, questo è stato notato da molti. Sono molto contento che lo scopo era proprio questo, cioè scrivere di una vicenda molto complessa, restituendo la complessità della storia. Perché uno degli aspetti della storia della Brigata Ebraica è la semplificazione, quasi la trivializzazione di aspetti che invece sono molto complessi, che vanno sviscerati e esposti nella loro complessità e nella loro lunga durata. Però quando se ne parla sui giornali, quando ne parlano i politici, spesso tendono a dare una lettura molto schematica, che certo non ne aiuta la comprensione. Allora volevo veramente rendere la complessità della storia, parlare di quanto la storia è complessa, però in maniera semplice, in maniera che fosse approcciabile da tutti. Io credo che gli storici abbiano il dovere della divulgazione. Questa parola è quasi ancora, nonostante tutto, una mezza bestemmia nell'Accademia italiana, perché gli storici italiani amano essere un po' complessi, amano essere un po' oscuri, usare terminologie oscure, in modo che ci si legge fra di noi storici. Ecco, questa cosa sta cambiando, anche grazie proprio all'apporto di autori stranieri. Voglio ricordarlo, è morto di recente Paul Ginsborg, che per tutti noi è stato un grande maestro. È stato poco ricordato il fatto che una delle grandezze di Paul Ginsborg era proprio che sapeva scrivere in modo semplice, che la sua famosa storia dell'Italia dal dopoguerra oggi la poteva leggere chiunque, perché era un testo molto scritto in maniera molto semplice. Questo, ecco, io appartengo a questa scuola, perché poi mi sono formato nell'ambiente anglosassone e quindi ho voluto scrivere un testo che fosse leggibile dal grande pubblico, ma anche dagli storici, dove ci sia la complessità della storia, la serietà della ricerca storica, ci sono le note, c'è tutto, però in maniera anche discorsiva e con molte storie dentro, cioè si parla anche di, ci sono molte storie, quindi ci sono molte parti narrate in questo libro, e c'è sì questa, visto che la citi, la dico subito, ogni capitolo si apre con un'indagine che questo tenente Barclay della military police, della polizia militare inglese, condusse su un gruppo di profughi ebrei che stavano cercando di imbarcarsi dalla Spezia. La famosa vicenda della nave Fede e Fenice, che era stata raccontata già anche in Italia, ma nessuno l'aveva mai raccontata dal punto di vista della polizia militare britannica che condusse l'indagine. Questi erano tutti scampati ai campi di sterminio, erano riusciti ad arrivare al Tarvisio, avevano passato la frontiera grazie anche all'aiuto degli uomini della Brigata Ebraica, che lì alla frontiera facevano lo smuggling, come si dice in italiano, il contrabbando di profughi, e erano riusciti a portarli alla Spezia ad imbarcarsi. Purtroppo loro non erano riusciti a partire perché fermati dalla polizia italiana, che aveva creduto stranamente che quei profughi fossero fascisti in fuga, fascisti che stavano cercando di scappare dalla giustizia italiana, e li avevano bloccati. Poi erano intervenute le autorità inglesi e quelli erano rimasti bloccati lì, ci fu un braccio di ferro che andò avanti più di un mese, che coinvolse organi di stampa di tutto il mondo, vennero politici, De Gasperi andò a portare la sua solidarietà, quindi è una vicenda molto molto interessante. a puntate ogni capitolo si apre con questa indagine. Perché? Beh, perché volevo anche dimostrare che la storia può essere affascinante e divertente, può essere, come è affascinante ed intrigante, può essere una detective story, perché questo è una detective story. Tutto quello che c'è scritto in questi prologhi è tutto vero, perché è tutto preso dal verbale di questo lieutenant, di tenente Barclay. Cioè, ci sono tutte le trascrizioni degli interrogatori di tutti di questi soldati della brigata ebraica che erano stati arrestati, dei testimoni italiani, e il modo in cui sono, se volete dopo vi racconterò dopo, magari adesso no, come sono entrato in possesso di questo dossier, che non esiste in nessun archivio, che mi è stato dato di persona dal figlio del tenente Barclay, che vive adesso nel Somerset, e che mi dette in un'occasione di un weekend passato a casa sua, mi consegnò questo fascicolo. Io promisi che un giorno ci avrei scritto qualcosa, una promessa che adesso ho mantenuto. E quindi perché il libro sulla brigata ebraica? Bene, qualcosa c'è stato scritto sulla brigata ebraica, sia all'estero in lingua inglese sia in italiano, ma molto poco e in maniera non sistematica, senza il necessario approfondimento storico. Quindi io notavo che diciamo, il mio punto di partenza è stato il 25 aprile. Io guardavo con sconcerto a quello che stava succedendo nelle manifestazioni del 25 aprile a Milano, ma specialmente a Roma. Gazzarra inscenata al passaggio degli uomini dei rappresentanti delle comunità ebraiche di quelle due città, fischi, urla, e una dolorosa, alla fine questa cosa comincia nel 2004, nel libro si analizza tutta la genesi, nel 2004 con la decisione di alcuni membri della comunità ebraica di Milano, più che altro membri anche dell'associazione Amici di Israele, di marciare con i colori della brigata ebraica. I colori della brigata ebraica sono però la bandiera di Israele, perché la bandiera di Israele è modellata sulla bandiera della brigata ebraica, cioè è la stessa bandiera. Quindi chiaramente la presenza della bandiera di Israele aveva al corteo del 25 aprile aveva creato molto più che sconcerto, vivaci proteste. Questa cosa negli anni si incancrenisce, diventa sempre più incresciosa, specialmente per una manifestazione come il 25 aprile, che dovrebbe esprimere unità, una composta e solenne unità di tutte le forze antifasciste contro il sempre presente pericolo fascista, che non si può mai dare per scontato che il fascismo sia del tutto sconfitto. Ecco, questa si finisce poi nel 2016 con addirittura a Roma avendo manifestazioni separate, ecco, con la comunità ebraica romana che si organizza la sua manifestazione separata dal corteo del 25 aprile, una cosa che io trovavo dolorosa. Ecco, da lì la ricerca di notizie e il rendermi conto che non si trovavano notizie, che ogni articolo pubblicato sui giornali era una copia dell'articolo precedente, tutti si basavano più o meno su qualche dichiarazione di qualche esponente delle comunità ebraiche di Milano e di Roma, che a sua volta avevano letto un paio di libri. Uno era The Brigade, la versione italiana di The Brigade di Bloom, che è un romanzo storico scritto da uno che non è un libro di storia, è un romanzo storico. E poi qualcuno aveva letto Maurice Beckham e Hard with Two Masters, non c'è, quindi un'armata con due padroni, non c'è nemmeno un'edizione italiana di questo libro. E questo era tutto, cioè c'era un po' di trafiletti che venivano copiati e incollati in ogni articolo. E con questo non voglio, se ci sono giornalisti presenti, lo so che è un mestiere duro e che a volte bisogna fare un po' di fretta perché il pezzo deve uscire il giorno dopo e non c'è tempo di trovare notizie. E poi in fondo, come sostengo nel libro, fare storia non è nemmeno il compito dei giornalisti, specialmente non è il compito dei politici, anche se però tendono a farla molto. Ecco, è il compito degli storici. Allora mi sono preso il compito e ho scritto questo libro, facendo ricerche su tutto il materiale esistente. In Italia c'è poco, ma se si va a leggere le cose in inglese c'è un po' di più. Poi mi sono trovato la memorialistica Coeva, cioè tutti i libri di memorie scritti per esempio da ufficiali della brigata ebraica, libri pubblicati nel 46, 47, addirittura alcuni nel 44, cioè mentre ancora gli eventi erano in corso. Per esempio il rabbino capo della brigata, Kasper, aveva pubblicato un libro di memorie. Chiaramente un libro scritto da uno dei protagonisti che era un convinto sionista, quindi è un libro che va preso un po' con le pinze, va interpretato, va capito, ma comunque una fonte, mi sono le parole in inglese source, una fonte di documenti molto importante. E per fortuna in Gran Bretagna c'è una grande tradizione di libri dell'usato, ci sono moltissimi piccoli negozi che vendono questi libri e quindi si trovano. E poi chiaramente però la cosa più importante è stata quella settimana che ho potuto fare al The National Archives, che è l'archivio centrale di Stato della Gran Bretagna, dove c'è tutto quello che riguarda l'esercito inglese, perché questa è una storia dell'esercito inglese, perché l'unità, la Jewish Brigade Group era un'unità di fanteria dell'esercito di Sua Maestà britannica. E quindi ho fatto quella settimana, ho ottenuto un po' di soldi dalla mia università, ho fatto questa settimana di studi lì. L'archivio è splendidamente organizzato, poi tra l'altro si possono fare foto, quindi mi sono portato via migliaia di foto di documenti che sono stati poi la base per fare questo libro, perché io sostengo che insomma lo storico però bisogna che vada in archivio, ecco, che va bene la memoria, però mi fido più della storia, nel senso, quindi bisogna anche avere una documentazione d'archivio per poter confrontare le memorie, per poterle analizzare, per poterle passare al vaglio di altri tipi di documenti. Non ci si può basare solo sulla memoria, che è un po' la tendenza recente, cioè questo, viviamo nell'epoca della memoria, nell'epoca del testimone, specialmente degli anni 2000 in poi, ci si affida così quasi in modo quasi esclusivo al sopravvissuto, al testimone, ma la nostra memoria è molto fallace, ce lo dimostrano gli studi di psicologia, noi in realtà non ci ricordiamo nulla del passato. Quello che ci sembra di ricordare, ma in realtà ci inventiamo interi episodi che in genere hanno lo scopo di giustificare moralmente la nostra azione in quegli eventi. Questo è, lo facciamo tutti, quindi no, non è colpa di nessuno, è proprio come funziona il nostro cervello. Non lo sapeva già Marc Bloch, che per noi è un grande eroe, perché è un storico francese che morì facendo la resistenza contro i nazisti, quindi lo portiamo come una specie di esempio per tutti noi. Ufficiale nella prima guerra mondiale, quando ha detto a fare le inchieste dopo le battaglie, ascoltava i vari ufficiali che davano rapporti su quello che era appena successo, completamente sballati e completamente divergenti, cioè, sembrava quasi che avessero partecipato a battaglie diverse, tanto la loro versione divergevano. Ecco, la memoria è questa, quindi va un po', è importante, esiste, ma lo storico professionista sa come analizzarla, e a volte lo storico non professionista non lo sa. E chiudo, i quattro punti che tu citi, ecco, allora dico, rapporto fra storia e memoria, uso pubblico della storia, a volte abuso della storia, che diventa uso politico, a volte proprio intenzionale della storia, come riconoscerlo nell'introduzione del libro propongo quattro punti. Quando la storia è fatta da non professionisti, il che non vuol dire che non ci siano storici amatori, non professionisti, che siano molto bravi, ce ne sono alcuni, specialmente della storia locale, ci sono nelle realtà locali alcuni storici non professionisti che fanno dei lavori splendidi. Però, diciamo, è più facile che ci sia uso e abuso della storia da quando questa è fatta da storici non professionisti che hanno uno scopo politico deliberato. Quando si guarda al passato isolando certi fatti dal contesto politico, storico e geografico, quindi si isolano completamente. Quando questa è la numero due. La numero tre è quando si mettono in evidenza esagerata alcuni eventi, mentre si trascura completamente altri eventi che sono a questi eventi contemporanei, però quelli vengono levati dal quadro e si valorizza soltanto un evento, perché quello è quello funzionale a quello che vogliamo, al punto politico che vogliamo acquisire. E infine quello che secondo me è il più caratteristico, cioè quella che io chiamo la connessione diretta passato e presente, cioè un evento è successo molti anni fa, viene detto avere una rilevanza attuale diretta, immediata, come se fosse successo soltanto ieri, cioè, perché spesso guardiamo alla storia come se avessimo uno zoom, no? Quindi appiattendo le distanze, no, ma il tempo conta tanto, perché i protagonisti delle storie cambiano opinione attraverso gli anni, evolvono, hanno prospettive diverse, e poi la memoria cambia, le interpretazioni successive fanno sì che noi si rielabora il passato attraverso con nuova consapevolezza, quindi la prospettiva storica va sempre tenuta in debita considerazione. Ecco, quindi penso di aver toccato tutti i punti che avevi detto, e anche il perché ho cominciato a scrivere questo libro e come ho fatto, diciamo. Beh, stiamo entrando nell'affascinante mondo di questo libro, e la Brigata Ebraica è nel contesto, in un contesto particolare. A differenza delle solite cose che si vengono ripetute, abbiamo presentato recentemente, un po' di mesi fa, il libro di Daniele Susini, Storia della Resistenza Ebraica Europea, e lui, esattamente come Fantoni, sottolinea molto questo aspetto. Gli ebrei che hanno combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, nei vari contesti, sono 1,5 milioni. E oltre a quelli che hanno combattuto, voi sapete bene, come pecore al macello, c'è stata tutta una serie di polemiche, le polemiche erano anche all'interno della storiografia e della cultura di Israele stessa. Ma nell'ultimo periodo, e noi poi che abbiamo ospitato il lager di Bolzano lo sappiamo benissimo, in realtà oltre a questo 1,5 milioni di combattenti va aggiunto tutti quelli che hanno saputo resistere nelle varie forme in cui la resistenza non violenta si può esprimere, addirittura dentro il lager, addirittura dentro i lager. E per un popolo oppresso da una minaccia di sterminio come il popolo ebraico, anche, e lo sottolinea anche Fantoni all'interno riportando poi questo dibattito in Israele, il resistere era anche il riuscire a sopravvivere con tutte le varie situazioni. Allora, la storia della Brigata Ebraica in questo contesto molto ampio ha una gestazione, una richiesta, delle motivazioni, e quindi c'è un prima per cui si arriva alla Brigata Ebraica che dura ben 5 anni, sì. E sarebbe bene approfondire questo prima di arrivare al durante. Sì, allora va bene, è una questione molto lunga e adesso nel libro è descritta bene, adesso ve la dico per sommi capi. Allo scoppio della guerra, già il 3 settembre 39, Moshe Chertok, che dopo la guerra si cambierà il nome in Charette, queste sono le complicazioni, poi si cambiano i nomi, perché quando uno poi diventa veramente cittadino israeliano assume un nome ebraico, va dal comando inglese e gli dice: guardate, noi siamo pronti a mobilitarsi e a entrare in guerra. Possiamo reclutare molti uomini, però partecipare alla guerra contro il nazismo. Questa cosa si materializzerà soltanto 5 anni dopo, nell'autunno del 44. Nel mezzo ci sono tantissime cose. C'è all'inizio un procedere per tappe. All'inizio sì, si procede a un primo reclutamento, che è quello dei BAFS, che erano i battaglioni palestinesi del Royal East Kent Regiment. Questo reggimento inglese era stato mandato in Palestina già dal 36 per contrastare la grande rivolta araba cosiddetta, quella dal 36 al 39, con cui gli arabi avevano cercato di fermare, diciamo, l'immigrazione ebraica in Palestina, e in un certo senso ci erano riusciti, perché alla fine di questo periodo la Gran Bretagna aveva emanato il Libro Bianco del 39, che limitava fortemente l'ingresso di nuovi ebrei europei in Palestina e anche la possibilità da parte delle comunità ebraiche di acquisire nuova terra. Non era stato tanto per la rivolta ebraica, era stato per l'approssimarsi della Seconda Guerra Mondiale, perché non si voleva correre il rischio che gli arabi si schierassero dalla parte dell'asse e che quindi non collaborassero. Ecco, allora, all'inizio si apre al reclutamento di truppe che sono sia arabe sia ebraiche. E per esempio una delle cose che non si sa, ma che è e che può essere anche curiosa, è che inizialmente si presentano più arabi che ebrei al reclutamento, cioè i primi mesi. Perché? Perché forse gli arabi sono più antifascisti, perché forse gli arabi sono più devoti, fedeli all'impero? No, è perché prima di tutto l'arruolamento prima di tutto direi per questo, che la paga data a questi soldati era la metà di quella data ai soldati inglesi, il che ci dice tutto il razzismo dell'impero britannico verso i sudditi. Insomma, le truppe coloniali erano considerate di seconda scelta, tanto che valevano la metà di un soldato inglese. Ora, questa cifra era ancora appetibile per i poveri braccianti arabi, che erano in generale piuttosto poveri, ma non lo era affatto per la popolazione ebraica della Terra Santa, che in genere aveva un tenore di vita più alto, e quindi ce ne vanno meno. Dopo l'agenzia ebraica dice no ragazzi, bisogna arruolarsi in massa perché dobbiamo dimostrare al governo inglese che noi vogliamo, che siamo i più fedeli all'impero britannico, e allora più e più vengono spinti ad arruolarsi e il numero degli ebrei che si presenta diventa maggiore di quello degli arabi. Però anche lì intanto c'è da convincere la gente ad andarci. A volte i membri dell'Ishuv, per chiarirsi, era la comunità degli ebrei che vivevano in Palestina prima della fondazione di Israele, alcuni membri dell'Ishuv ci vanno volentieri, altri non ci vanno affatto, non ci vogliono andare, specialmente i commercianti, specialmente i borghesi. Infatti ci sono alcuni sindacalisti che denunciano questo, scrivono delle lettere, anche degli articoli di giornale dicendo ci dite di arruolarsi, però siamo noi operai e ci dobbiamo arruolare. Io di borghesi che si arruolano ne vedo molto pochi. Ci sono anche i membri più scalmanati dell'Ishuv, dell'agenzia ebraica, fanno persino intimidazioni mafiose, a qualcuno gli viene bruciato il negozio, gli vengono spaccate le vetrine perché non si sono presentati all'ufficio di collocamento, cosa che gli era stata raccomandata caldamente di fare. Allora poi qualcuno ci va, qualcuno non ci va, e insomma la situazione è come. E poi c'è una divisione anche all'interno dell'Ishuv, quest'idea che bisogna mandare tantissime reclute all'impero britannico è sostenuta da Weizmann, la cui strategia si basa completamente sulla collaborazione con l'impero britannico, ma altre componenti dell'agenzia ebraica e dell'Ishuv in realtà, o della Ganah, che era diciamo il braccio militare dell'Ishuv, non sono per niente d'accordo. Non è d'accordo Ben Gurion, che poi sarà il vero fondatore di Israele, che pensa che la fondazione di Israele passerà inevitabilmente attraverso una guerra, e poi infatti in qualche modo gli danno ragione, oppure è il suo atteggiamento che c'è, cioè una profezia che si autoavvera, perché alla fine lui va per lo scontro, però alla fine insomma, e non attraverso la collaborazione con l'impero. Quindi non conviene collaborare con l'impero, bisogna mandargli pochi uomini, e questa cosa andrà avanti fino al 44, ancora con la creazione della brigata ebraica. Una parte dell'agenzia ebraica spinge perché gli si mandino più reclute possibili, e una parte invece non vuole, perché dice perderemo i nostri giovani che ci servono qui nei kibbutz per continuare l'opera della colonizzazione e per difenderci dagli arabi, perché se poi scoppia la guerra e questi stanno ancora in Europa, che facciamo? Abbiamo 5.000 dei nostri giovani in Europa che ci servono qui. E questo è uno dei motivi per cui alla fine, vuoi perché è ormai troppo tardi, la guerra è vinta, l'entusiasmo è un po' passato, vuoi perché ci sono divisioni dell'Ishuv, vuoi perché molti inglesi non ci si vogliono arruolare, molti ebrei di Palestina non vogliono arruolarsi con un esercito che ritengono essere l'esercito di una potenza capitalista e imperialista, perché molti degli Ishuv sono socialisti, quindi la Gran Bretagna la vedono come il fumo negli occhi, e quindi non ci si vogliono arruolare. Alla fine non si troverà i 5.000 uomini per fare la brigata ebraica, ci si ferma a 3.000, tanto che appunto per portarla alla consistenza di una brigata si dovranno immettere un migliaio di soldati non ebrei, più che altro scozzesi, lo dico perché ho questo legame con la Scozia, quindi mi fa piacere ricordarlo, più che altro scozzesi, e oltre che una buona parte degli ufficiali e alcuni specialisti, tipo gli artiglieri, i guidatori dei camion, perché non o di, no, dei camion, scusate, dei carri, dei carri. Sì, i carri, però le tanchette leggere inglesi. Sì. Sì, quelle i brain carrier, le tanchette leggere inglesi, e poi i marconisti. Perché mai ci sono proprio delle circolari che dicono qualsiasi cosa facciamo, non prendiamo gli ebrei per fare i marconisti, perché non possiamo permetterci che i codici delle comunicazioni militari cadano in mano a gente della cui realtà non ci fidiamo affatto, nel senso, perché la diffidenza degli inglesi verso la componente ebraica rimane comunque, e l'arabe anche, rimane costante durante tutta la guerra, e d'altro canto è reciproca, perché anche l'Ishuv non si fida affatto degli inglesi, è proprio, ci sono, nel mezzo di tutta questa situazione c'è il Palestine Regiment, che è questo reggimento palestinese che ruola sia arabi sia sia ebrei, però gli ebrei si presentano in un maggior numero. Alla fine il Palestine Regiment avrà 1600 ebrei e 1200 arabi. I 1600 ebrei del Palestine Regiment saranno poi il nervo della brigata ebraica, si riuscirà a portare fino a 3000-3100 con le ulteriori con gli ulteriori recruitment, come si dice, arruolamenti, però non si arriva appunto ai 5.000. Perché? Perché la storia è complessa, come dicevo prima, perché ci sono divisioni politiche all'interno degli Ushuv, diffidenze fra gli inglesi e gli ebrei, e, gli inglesi non vogliono scontentare troppo gli arabi, quindi ci fermiamo una brigata. Ce ne sono tantissime, molte di più di quelle che vi ho detto ora, nel libro le trovate tutte. È la complessità della storia ed è il passare del tempo, che specialmente in una situazione di guerra ogni mese lo scenario cambia e ogni mese le opinioni si ricalibrano a seconda delle esigenze del momento. Addirittura si parte dal Parlamento inglese con una mozione di un parlamentare che paragona, che chiede un corpo d'armata intero ebraico. Questa cosa semmai chiariamola. Paragonandolo agli scozzesi, ma ricevendo come risposta che è no. Il problema di fondo è che la persino Churchill, che è abbastanza favorevole al sionismo, Churchill è abbastanza simpatico con il sionismo, però c'è questo problema che, questa cosa viene scritta in molte circolari militari, fra i generali, nella corrispondenza fra il Colonial Office, che era l'ufficio coloniale, e il War Cabinet: se noi diamo agli ebrei la possibilità di avere una loro armata, un loro corpo militare, indipendentemente da quanto grande sia, con i loro colori, allora noi li stiamo riconoscendo come nazione. Questo va contro lo spirito del libro bianco, ma soprattutto è foriero di problemi una volta la guerra sarà finita. E ci stanno domande: che cosa vogliamo fare in Palestina? Davvero ce ne vogliamo andare? Allora si può fare questa cosa, o ci vogliamo restare? Perché se ci vogliamo restare, allora la brigata ebraica è una pessima idea. Non è che questo è. Allora, nel libro, nel secondo capitolo, io sostengo che la decisione alla fine di formare questa brigata ebraica, che è presa nell'agosto del 44, alla fine forse segnala l'idea che Winston Churchill si era convinto che non c'era niente da fare, che la Palestina si sarebbe perduta. Allora era meglio fare la partizione, perché dividi e t'impera, no? Dividiamo fra arabi, così si saranno in scontro e noi possiamo sempre intervenire un giorno come pace aerei, con il mandato delle Nazioni Unite, magari per essere quelli che impongono la pace. Quindi allora in questa ottica, per cui ormai si è accettata la partizione, la brigata ebraica diventa possibile. Quindi è tutto un gioco politico estremamente complicato. Bene, la brigata ebraica, dopo una lunga gestazione, finalmente si forma. Ci sono vari problemi di addestramento, ma arriviamo al dunque. Quando riescono finalmente a scendere sul terreno e cosa fanno per contribuire alla vittoria della Seconda Guerra Mondiale e in particolare della Resistenza d'Italia? Il loro contributo è simbolicamente e moralmente veramente rilevante. E soprattutto dobbiamo dire che merita il nostro applauso e la nostra gratitudine, perché chiunque si sia battuto per la liberazione dell'Italia merita assolutamente la gratitudine. In termini militari non è molto consistente, ma non per colpa loro, tutti i documenti concordano nel dire che si batterono bene, però ebbero poca occasione di farlo, perché arrivarono molto tardi al fronte. All'inizio fanno l'addestramento a Fiuggi, nella famosa stazione termale, e poi arrivano sul fronte di Alfonsine quando ormai si è già deciso che l'offensiva invernale è finita. Quindi arrivano a marzo, lì sono impegnati in una serie di pattugliamenti, hanno delle perdite più che altro di persone che saltano sulle mine o vengono colpiti dal tiro dei mortai tedeschi. Quella, se conoscete la zona, è la Romagna, una gigantesca pianura, non c'è niente, quindi ci si spara, si fa una guerra a tiri curvi, cioè sparandosi con i mortai, perché i canali che sono sopraelevati impediscono la vista. Quindi dopo vengono spostati più a sud, cioè più a sud-ovest, nella zona di Riolo Terme, e lì prendono parte alla battaglia del Senio. Tra l'altro io queste zone me le sono fatte tutte, c'è una descrizione nel libro per geografica di tutte le zone che vengono, in cui i soldati della brigata ebraica si trovano a passare. Costrinsi mia moglie a un tour estivo in un agosto, era un caldo micidiale, immaginatevi, in Romagna, fu una cosa però molto divertente. Allora quando comincia l'offensiva finale nell'aprile, passano il Senio, liberano il paesino di Cuffiano, che sono poche case, ma è comunque un paese che fino a quel momento era sotto il tallone nazista, e che loro liberano. C'è una battaglia intorno al mulino Fantaguzzi, che è ancora presente, se volete c'è ancora il mulino e c'è ancora le bossoli, cioè i buchi provocati dai proiettili, e poi prendono d'assalto il Monte Gebbio, avanzano fino quasi alle porte di Faenza, dove vengono poi fermati. Perché questo limitato impiego militare? Beh, perché non li si voleva, diciamo, non erano molto addestrati, non erano molto ben armati, non avevano tank per esempio, ma solo il Bren Carrier, e poi non si voleva rischiare che fossero distrutti in battaglia, perché sarebbe stato un colpo tremendo da un punto di vista propagandistico per i nazisti. Ci sono proprio circolari che dicono: attenzione, noi stiamo facendo questa unità, e se poi le cose vanno male ci rideranno dietro, quindi bisogna in qualche modo proteggerli, cioè quindi bisogna dargli il contentino di combattere, sennò questi smaniano per combattere, però teniamoli sempre un po' dietro la prima linea. Quindi gli fanno anche quell'azione su Cuffiano, è un'azione secondaria in appoggio alla brigata Friuli, che invece attacca Riolo Terme, e che solo in quella battaglia lì la Friuli ha 200 morti, cioè per dirvi, mentre la brigata ebraica in tutto il ciclo di operazioni c'ha una cinquantina di morti. 57, ok. Di cui 30 palestinesi e 27 ebrei inglesi. Sì, perché poi ci hanno accorpato anche gli ebrei, un po' di ebrei inglesi, che molti non ci volevano andare perché ce li trasferivano, e loro dicevano: ma perché devo lasciare la mia unità di gente che sa combattere, dove tutti si parla inglese, io sono inglese, per andare a combattere con un'unità fatta quasi esclusivamente di est europei, perché erano tutti ungheresi, russi, ucraini, tedeschi, molti tedeschi, che non sanno parlare bene inglese, e quindi insomma noi non parliamo ebraico, perché il sionismo non era molto diffuso in Gran Bretagna, non era molto al tempo, quindi non c'era molto, gli ebrei inglesi erano molto ben integrati, però alla fine molti ci furono mandati d'ufficio, anche perché gli ufficiali dovevano essere inglesi, gli ufficiali superiori, e quindi se ne cercò più che altro fra gli ebrei, da dove non se ne trovarono si mandarono i non ebrei, i gentili, però si cercò ufficiali inglesi ebrei da poterci mandare. Il capo della brigata ebraica era un canadese, era un ebreo canadese, che però non era un laico, non parlava ebraico, e imparò l'ebraico mentre era con la brigata, glielo insegnò il rabbino capo, gli insegnò l'ebraico, mentre, perché lui veniva da una famiglia non religiosa di Toronto, era il brigadier Benjamin, che poi dopo, insomma, alcuni, ecco, la brigata fu anche scuola di sionismo, in un certo senso, alcuni si convertirono al sionismo mentre erano lì, anche se la brigata ebraica in di per sé non può essere detta un'armata sionista, perché? Perché non tutti lo erano, un migliaio non erano neanche ebrei, e altri erano lì per altri motivi, o perché ce l'avevano mandati, perché si erano arruolati prima nel Palestine Regiment, o perché volevano andare in Europa a cercare i loro familiari che erano nei campi di concentramento. La brigata ebraica partiva per l'Europa, bene, ci si arruola, alla prima occasione prendo la licenza oppure diserto e vado a cercare i miei familiari in Auschwitz o dovunque, in Polonia, dovunque sono, infatti molti lo fecero. Sì, quelle sono. Allora, alla fine lasciamo anche un po' di per il pubblico. Sì. Allora, siamo arrivati alla fine delle azioni militari che si svolgono tra marzo e aprile. Sì. La brigata viene mandata a Tarvisio. Sì. Si apre una lunga discussione se farli andare a occupare Austria e Germania. Nel frattempo, dentro la brigata, alcuni si fanno coinvolgere da una discussione sul tema della vendetta. La cama. Sì, questa è una. Scusa, volevo finire. No, solo una cosa. E poi, se, che credo sia importante, come per introdurre l'ultima domanda sul 25 aprile, sì, se dici qualcosa sul 51esimo Middle East Commando. Sì. Allora, sì, inizialmente, come si dice, non li si voleva far combattere troppo, ma sicuramente c'era l'idea che avrebbero partecipato all'occupazione della Germania. Addirittura Churchill, nel discorso pubblico con cui annunciò la formazione della brigata ebraica, disse: poi parteciperanno all'occupazione della Germania, come è giusto che sia, e questa è quasi, vuol dire, è giustizia storica. E quindi per molti questa occupazione era diventata finalmente la soddisfazione finale, il surrogato di quella pariglia che non si era potuto rendere ai tedeschi in battaglia, per quanto non take me wrong, come dicono gli inglesi, qualcosa fecero, proprio in un'occasione catturarono 11 prigionieri tedeschi, insomma qualche cosa la fece, però certamente non ci fu quella travolgente battaglia fra tedeschi e brigata ebraica che vide una vittoria, non ci fu proprio la battaglia, diciamo, furono piccoli scontri. Allora, ci sarà invece l'occupazione, però succede, arrivati verso il nord, appena incontrano prigionieri tedeschi, questi ragazzi della brigata perdono un po' la testa, li aggrediscono, li picchiano, e quindi nel comando inglese ci si domanda se sia il caso di mandarli in Austria, in Germania, perché che succede se questi si mettono a ammazzare, a sparare alla popolazione civile? Blocchiamoli a Tarvisio. Ora, questa in realtà voleva essere una punizione, ma fu quasi una fortuna, perché lì a Tarvisio era il punto dove passavano i profughi, cominciavano a passare i profughi che arrivavano da Auschwitz, i sopravvissuti dei campi. E la brigata prende così un ruolo da protagonista. Io infatti dico sempre, invece di parlare della brigata per le loro azioni militari, bisognerebbe parlarne per quanto di buono fecero per aiutare i profughi, che fu veramente un'azione encomiabile, non per aiutare i profughi e per ricostruire le comunità ebraiche del nord Italia che erano state completamente distrutte sotto il regime di Salò. Ecco, in questo senso la brigata, quindi invece per dare la morte, la brigata fu molto importante per dare la vita. Aiutarono un sacco di bambini che emergevano dalle soffitte, dagli scantinati, dai conventi, riuscirono a creare scuole, gli davano da mangiare, gli insegnavano l'ebraico, gli insegnavano le danze, gli davano anche una risocializzazione. E poi aiutarono migliaia di questi profughi, istituirono loro stessi due campi profughi lì in Friuli, vicino al Tarvisio, e poi dopo subito si mettono a fare, specialmente quanti della brigata erano agenti del Mossad, dell'Agana Mossad, erano circa 150, un buon numero, per portare in Israele, cioè quella ancora non era Israele, la Palestina, quella che sarebbe diventata. Loro lo chiamavano Eretz Israel, però era con termine biblico, però era la Palestina ancora, e facendo appunto, cercando di metterli su queste navi, come la Fede e la Fenice. Molte di queste navi non ce la fecero ad arrivare, alcune affondarono anche purtroppo, altre furono intercettate dagli inglesi e poi i profughi li mandavano a Cipro. Non so se avete visto Exodus e tutti i film, quella è una storia molto interessante che io parlo solo in riferimento un po' anche nel libro, ma in questa storia del capitano Barclay, appunto perché non volevo rivisitare una storia su cui si era già scritto molto, invece la presento da un punto di vista inedito, quella degli inglesi che fanno le indagini, che cercano di venire a capo di questa complicatissima rete di sostegno ai profughi, che coinvolge anche molti italiani. Ci sono molti italiani che gli danno una mano, molti partigiani, ci sono esponenti del Partito Comunista, che di lì a poco disconoscerà Israele perché in ossequio alla politica stalinista, perché il PC di allora in pratica applicava la politica estera di Stalin, dell'Unione Sovietica, e quindi rinnegherà Israele, ma che nel 44, 45, 46 invece aiutano i partigiani, in particolare anche mi piace ricordare Emilio Sereni, che il capitano Barclay trova proprio delle prove del fatto che Emilio Sereni stava aiutando, dice: "Influence and partisan leader from Rome, Mr. Sereni", che è Emilio Sereni, che era il fratello di Enzo Sereni, importantissimo esponente del sionismo italiano, morto durante una missione, che era, si era arruolato poi con l'esercito inglese, lo paradutarono nel nord Italia per coordinare la resistenza, fu però catturato, poi spedito a Dachau e lì assassinato dai nazisti, uno degli eroi dell'ebraismo italiano. Emilio era il suo fratello, grande membro del Partito Comunista Italiano. Quindi, scusate, la vendetta. Allora, mentre sono lì, gli uomini della brigata vengono a conoscenza che c'è un tipo che si chiama Abba Kovner, che nel nord era un russo che aveva combattuto nel ghetto di Vilnius. Poi, quando il ghetto era stato distrutto, si era unito ai partigiani sovietici, aveva continuato a combattere, lui e il suo gruppo, e che dopo la guerra ha cominciato a creare un'organizzazione politica che ha questi tre punti. Un primo punto, portare tutti i profughi sotto una stessa organizzazione, poi portarli tutti in Eretz Israel immediatamente con ogni mezzo possibile, e tre, la Nakam, cioè rendere la pariglia ai tedeschi, ai civili tedeschi, e pareggiare i conti, quindi ammazzare 6 milioni di tedeschi. Questo è il loro. Ora, appena l'agenzia ebraica viene a sapere di questa cosa, gli si accappona la pelle. Prima di tutto non vogliono che ci sia un'altra organizzazione concorrente all'agenzia ebraica, perché sono loro i rappresentanti che devono gestire i rapporti con l'impero britannico, e questo qui che agisce come un battitore libero potrebbe compromettere i rapporti pazientemente intessuti della brigata dell'agenzia ebraica con i britannici. Poi portare tutti gli scappati dei campi in Terra Santa ora è impossibile, non si saprebbe dove metterli, non c'è la logistica. Se ne deve portare alcuni. Ben Gurion ha dato l'ordine di portare solo maschi da 18 ai 35 anni che possibilmente abbiano una qualche esperienza nell'uso delle armi. Perché? Perché si prevede la guerra con gli arabi, e quindi è inutile mi portate i vecchi e i bambini, portatemi gli uomini, poi i vecchi e i bambini li facciamo venire dopo. Questo è il suo ragionamento. Quindi anche lì. E poi la Nakam non la si vuole nemmeno prendere in considerazione, perché creerebbe una potenzialmente una pessima immagine per il neonato stato ebraico qualora si formasse dopo la guerra. Abba Kovner incontra i soldati della brigata, li esorta a unirsi a loro, però i soldati della brigata obbediscono all'agenzia ebraica e quindi dicono vabbè, lo so, eh. Lui poi andrà in Palestina perorando lì la sua causa, ma i suoi discorsi antipartitici, perché lui diceva dobbiamo eliminare tutti i partiti, essere tutti uniti, suonavano un po' fascisteggianti agli occhi di chi era appena agli orecchi di chi aveva appena completato finito la seconda guerra mondiale. Quindi, e quando lui si reimbarca per tornare in Europa e per portare avanti la sua vendetta contro i tedeschi, viene arrestato. Tanto lui è vestito da soldato della brigata ebraica, viene arrestato dagli inglesi, e sicuramente su segnalazione dell'agenzia ebraica, cioè l'agenzia ebraica dice agli inglesi guardate, è su quella nave, arrestatelo, levatecelo di torno, perché questo è un tipo pericoloso. Però che cosa succede? Che alcuni degli uomini della brigata ebraica che avevano sentito la sua Abba Kovner, che era un oratore potente, tra l'altro anche un poeta, si convincono che forse un po' di vendetta bisogna farla, e quindi formano queste squadre e vanno in Austria, c'hanno le divise inglesi, c'hanno il lascia passare, parlano tedesco, quindi, e si spingono fino in Germania, e un po' di nazisti li fanno fuori, non si sa quanti, perché non ci sono documenti su questa cosa, è soltanto basata puramente sulle testimonianze, vi ho detto prima quanto le testimonianze siano inaffidabili. Qualcuno parla di qualche decina di tedeschi, qualcuno parla di 1500, qualcuno dice che c'erano 40 squadre, qualcuno dice che ce n'erano 4 o 5, quindi le testimonianze si contraddicono. Non tutti nella brigata sono d'accordo, altri sono veementemente contrari, scrivono all'agenzia ebraica dicendo guardate qui stanno succedendo queste cose, bisogna fermarle assolutamente. E a sua volta questi poi faranno dei racconti in cui si dice che, per esempio, la vendetta era questa roba qui, che una squadra si fermava al lato della strada e chiunque passasse, dal lato della strada in Germania, e chiunque passasse gli sparava, cioè sparavano a caso ai civili tedeschi, e questa sarebbe stata la vendetta. È vero? Non è vero? Può essere che sia vero, o può essere che questa sia una storia inventata da quelli che non volevano che queste azioni venissero fatte per parlare male dei soldati che stavano facendo la Nakam. Quindi io queste storie le riporto tutte, però le metto nella giusta cornice. In assenza di documenti ci dobbiamo fidare di quello che ci viene detto da una parte e dall'altra. Te l'ho chiesto perché questa questione della Nakamba è spesso usata da alcuni gruppi di destra, soprattutto su internet, per screditare il tutto, e credo che sia importante. Finiamo con questo. E poi c'è già qualcuno che ha chiesto parola di autorità. Allora, senza farti fare tutto, perché è molto lungo e tutto il resto, la polemica sul 25 aprile, poi se no non leggete il libro, quindi non va bene. Parto da una cosa che tu riporti, una testimonianza di Gerlerner, che di fronte a queste polemiche, Gerlerner è venuto qui recentemente, l'ha anche ripetuto in alcuni colloqui a fare un dialogo bellissimo con Edith Brooke, e che anche lei è citata nel libro peraltro. E Gerlerner dice: ma come queste polemiche? Si rivolge sia a chi le fa da parte della sinistra radicale, sia a chi le fa da parte delle comunità ebraiche, e dice: ma come il contributo della resistenza degli ebrei italiani è enorme? E cita una serie di dati che tu riporti nel libro, tra cui cui quello che credo sia importante, quello dei 7 decorati con medaglia d'oro al valor militare appartenenti alla comunità ebraica. Allora, perché questo punto d'incontro, che mi sembra molto ragionevole, trovato da Gadlerner e che, come dire, rompe con i due estremismi, non si è ancora affermato e trova così tanta difficoltà come punto di vista? Allora, prima di tutto faccio due precisazioni. La prima è che io ritengo che le contestazioni alla brigata ebraica siano inescusabili, cioè non questa gazzara quando passa la brigata ebraica, le offese, i tentativi di aggressione sono assolutamente da condannare. Primo. Secondo, la difesa di Israele, la difesa del sionismo, anche energiche, sono assolutamente legittime, sono posizioni di assoluta legittimità. Il problema viene quando per farle si tira la storia per la giacchetta, e allora io lì come storico mi trovo a disagio, allora devo intervenire e dire la storia è un po' più complessa di così. Forse, nel senso, quando si parla di storia, della brigata ebraica, si fa finta, si dice che si sta parlando di Italia, di resistenza, ma in realtà si sta parlando di Medio Oriente oggi. Questo bisogna dirselo, cioè ha poco a che fare la brigata ebraica con quanto successe sulle rive del Senio nel 44, nel 45, ha a che fare con quanto sta succedendo adesso in Palestina e in Israele. E questo è comprensibile anche, perché lo fanno tutti, attenzione, l'uso della storia per legittimare una posizione politica è una cosa diffusissima, lo fanno tutti. Compito dello storico è però intervenire e cercare di rimettere le cose nella giusta luce, perché non perché bisogna fare quelli bravi o per sbugiardare, ma perché questo è l'inizio del dialogo. No? Questo, allora, quando si comincia a accettare che però forse non è tutto bianco e nero, che ci sono delle sfumature di grigio, allora però anche l'altra parte si rende conto che non è tutto bianco e nero, ma che ci sono delle sfumature di grigio, in una di quelle sfumature di grigio si può cominciare a dialogare e poi magari cominciare a ricomporre questo conflitto. Prima il conflitto in Italia fra riunificare il fronte antifascista, e poi ora non oso sperare, vero, che questo sarebbe una cosa, però chi lo sa, anche il conflitto israelo-palestinese, ora non oso sperare che il mio libro abbia anche il minimo contributo alla risoluzione di un conflitto così, così complicato, però io ci ho provato, questo è il mio contributo per la pace, diciamo, in Italia e lì. Quando appunto si comincia a accettare che c'è un'altra memoria, la memoria dell'altro, anche quella fallace come la mia, e poi allora si chiede allo storico ma come stanno esattamente le cose, allora ci si accorge che le colpe sono un po' distribuite di qua e di là, che siamo tutti un po' cattivelli e tutti un po' buoni, e allora e da lì si può cominciare a comprendersi, ecco. Quindi in poche parole la riscoperta della brigata ebraica nei primi anni del 2000 avviene perché si vuole rivalutare il sionismo agli occhi dell'opinione pubblica italiana, un sionismo che e quindi è per questo che il primo striscione della brigata ebraica dice anche loro 5.000 sionisti hanno liberato l'Italia, cioè si vuole rivalutare il sionismo e riappropriarsi dell'antifascismo che era stato scippato, diciamo, alle comunità ebraiche nei decenni precedenti. Quindi questa operazione, che è storicamente discutibile, a sua volta è provocata dal fatto che il sionismo era diventato negli anni precedenti, più o meno dalla guerra dei sei giorni in poi, visto in maniera negativa in Italia, è quasi sinonimo di fascismo, e questa operazione invece l'ha fatta la sinistra, l'ha fatta il Partito Comunista prima per ossequio alla politica dell'Unione Sovietica, poi per terzo mondismo quando il conflitto israelo-palestinese viene letto attraverso il prisma della guerra del Vietnam, per cui si applica la stessa, viene letto come una guerra coloniale di decolonizzazione, allora è chiaro, gli israeliani sono gli americani e i palestinesi sono i vietnamiti, però questo paragone storico, come tutti i paragoni, sconta un buon grado di approssimazione per metterla in maniera molto, molto leggera. Poi c'è la sinistra radicale che paragona la guerriglia dei fedayin ai partigiani italiani, sono i nuovi partigiani, allora l'idea che i palestinesi stanno facendo la resistenza è per questo che le bandiere palestinesi cominciano ad apparire nei cortei del 25 aprile, già dalla fine degli anni 70, perché c'è l'identificazione fra resistenza e guerriglieri palestinesi. Di nuovo, però, le cose non stanno proprio così, c'è differenza, è un conflitto, ma è questo, guardate, da sempre il conflitto israelo-palestinese non viene letto nella sua realtà, ma viene letto a seconda dei nostri prismi ideologici e culturali. E quindi in realtà il conflitto con Israele serve a definirci, a autodefinirci, cioè a dare a darci un'identità politica, e questo diventa ancora più urgente e ancora più categorico quando noi perdiamo le nostre identità politiche, cioè quando c'è il crollo delle ideologie alla fine degli anni Ottanta. Allora non c'è rimasto più niente su cui darsi una identità politica. Allora prendiamo in prestito Israele e Palestina, allora chi è di sinistra stacca i palestinesi, chi è di destra si schiera. Mentre prima era diverso, per esempio il Partito Socialista, che bene o male era di sinistra, stava con i palestinesi, per esempio. Cioè prima le cose erano diverse, quindi tutto si ricalibra dopo l'89, e perché sono finite le ideologie e il mondo politico italiano, e poi anche gli italiani semplici devono riidentificarsi ideologicamente, e quindi prendono il conflitto israelo-palestinese come un modo per ottenere questo. Guardate, questo sta succedendo adesso di nuovo con il conflitto in Ucraina, ci stiamo rischierando prendendo posizioni identitarie che pochissimo hanno a che fare con la realtà di quel conflitto, di cui non sappiamo niente, come in genere sappiamo molto poco del conflitto israelo-palestinese, di cui alla fine ci importa anche poco, perché quello che ci importa è quello che questo conflitto dice di noi stessi. Va bene, questa cosa è purtroppo la fanno un po' tutti, ma ho l'impressione che noi italiani la facciamo in maniera particolare, perché abbiamo bisogno di schierarci ideologicamente, di avere opinioni forti, e invece io sono un po' un seguace di Vattimo e del pensiero debole, bisogna non avere troppe certezze nella vita, ecco. Quindi questo è un po' non ti ho detto dei... Allora sì, una cosa dice Gadler giustamente. Torniamo invece a parlare degli ebrei che si sono battuti, italiani, non la brigata ebraica, che erano tutti stranieri, a parte un po' qualche italiano c'era, arrivarono dopo, il libro se ne parla, arrivarono a guerra finita, però si aggiunsero alla brigata in seguito, erano più che altro est europei, mentre ci sono tanti italiani che si sono, ebrei italiani che si sono battuti, che sono morti. Alcuni dei capi della resistenza erano ebrei, il più giovane partigiano caduto, Cesana, aveva 14 anni, caduto in combattimento, era ebreo. E poi ci sono queste 7 medaglie d'oro. Anzi, guarda, vorrei fare una cosa, se posso leggere, ecco, i nomi di questi 7. Mi sembra un omaggio. Ah, grazie, mi ha dato il. Mi sembra un omaggio dovuto, ecco. Vorrei leggere i nomi delle 7 medaglie d'oro conferite a ebrei italiani che caddero in combattimento, oppure che furono ammazzati subito dopo essere fatti prigionieri, perché loro sapevano che se c'era poca pietà per i partigiani, per gli ebrei non ce n'era nessuna. Eugenio Calò, Eugenio Colorni, Eugenio Curiel, Sergio Forti, Mario Iacca, Rita Rosani e Ildebrando Vivanti. Mi sembrava un... Bene, ha già chiesto di parlare Cinzia Villani e spero anche altri. Prima di darle la parola, anticipo solo una lettura. Non ho fatto letture perché il nostro Fantoni, come avete sentito, da buon toscano, lo espone molto bene. Ma lui finisce con una cosa che io ho trovato molto bella. Finisce con la storia dei due combattenti, Azim Khalidi e Uzi Narkis, uno arabo, l'altro ebreo, che combattono insieme durante la Seconda Guerra Mondiale, che si ritrovano poi a combattere uno contro l'altro nel 48, e addirittura nella guerra dei sei giorni, dove uno è combatte, uno guida l'assalto decisivo per la conquista di Gerusalemme e l'altro è vice sindaco di Gerusalemme dell'altra parte e deve trattare la resa. La storia di Uzi e Azim avrebbe potuto essere diversa. Dopo aver contribuito entrambi a sconfiggere il fascismo, avrebbero potuto far parte di uno stesso Stato, oppure di due Stati diversi, ma che fossero rimasti da subito in rapporti di amicizia e cooperazione. Sappiamo che non è andata così. Ma sappiamo anche che il conflitto che oppone israeliani e palestinesi non è affatto una condanna inflitta in via definitiva ai due popoli. Abbiamo sostenuto in questo libro che se c'è una cosa che proprio non ha cittadinanza nella storia sono le letture deterministiche e le necessità ineluttabili. Niente avviene per forza e tutto può sempre essere cambiato. Non molto tempo fa Ebrei e arabi di Palestina vestirono la stessa divisa e servirono sotto la stessa bandiera. Non c'è motivo per cui ciò non possa accadere in futuro. Il primo passo perché questo possa avvenire è che ognuna delle due parti accetti di accettare la memoria dell'altra, che riconosca che ci sono altre storie oltre a quelle che a ognuno piace raccontare e raccontarsi. Gli storici, che di mestiere queste storie indagano, confrontano, mettono in prospettiva, possono avere un ruolo importante per costruire un futuro di comprensione e di pace in Palestina come altrove. Questo libro vuole essere un contributo in tale direzione. Te lo richiedevo dopo alla fine. Cinzia. Allora, mi trovo una mascherina, sono fatta. Sì. Va bene. Si alza in piedi. No, quello no. Non ci sente. Ti porto il microfono. Grazie. Senta, io adesso non voglio entrare troppo nel fare domande troppo dettagliate, però sarei interessata a due cose. La prima è se le è capitato di vedere in documenti inglesi il fatto che uomini della brigata ebraica adatte al visio siano proprio andati nei campi, tipo, perché io avevo letto, però non so se sia vero o meno, tipo Mauthausen o addirittura in campi in Polonia, però non so quanto si siano spinti in là e magari lei lo sa. La seconda domanda è questa. Lei faceva riferimento ad Abba Kovner, per cui immagino all'organizzazione della Brigata. Sì, ecco. Questa era l'organizzazione, diciamo. Esatto. E questo, non sapevo del fatto che ci fossero state queste contrapposizioni tra la Brigata e l'agenzia ebraica, no? Però poi in effetti la Brigata ha agito tanto in Italia e ha portato tantissimi profughi, circa 50.000 profughi in territorio italiano, per cui in qualche maniera la situazione si è sbloccata. Non so se sia il suo ambito di ricerca, però magari sa cosa è successo. Poi anzi, le domande sono tre. Ci sono stati poi dei soldati della Brigata Ebraica che sono rimasti in Italia, se non sbaglio. Sì. Ad aiutare questo afflusso di profughi che poi tra il resto sono anche passati attraverso i nostri confini, no? Resia, Brennero e anche il confine dei Tauri nell'estate del 47. Per cui una storia anche che ha toccato molto da vicino l'Alto Adige. Magari insomma lei ne ha avuto delle notizie. Allora sì, allora, no, dei campi di concentramento sì, allora c'è proprio una testimonianza del il rabbino capo della, il rabbino lì dell'unità, a un certo punto va in uno dei campi di Kofering, che è vicino a Landsberg, era uno dei sottocampi di Dachau, e lì c'è un incontro molto emozionante con i sopravvissuti, che sono in condizioni pessime, sono in un certo senso ancora prigionieri, perché sono ancora chiusi nel campo, nonostante il campo sia gestito dagli inglesi, però non ci sono risorse, non c'è personale, quindi li tengono chiusi dentro, non possono uscire, non hanno nemmeno un servizio postale, quindi insomma, la situazione è certo migliorata rispetto a quando c'erano i nazisti, ma non così marcatamente, e quindi lui cerca di prestargli soccorso, gli prende tutti i nomi per poterli comunicare ad altri, nel caso trovasse altri campi. E comunque la brigata in quel momento sta attraversando la Germania per arrivare in Belgio, la attraversa e basta, cercano di farla attraversare il più velocemente possibile, l'unica cosa che ottiene è che i camion della brigata possono passare davanti ai cancelli del campo, che così almeno i prigionieri possono vedere la stella di Davide sui portelloni e vedere che c'è un esercito ebraico che in armi in Germania, che almeno questa soddisfazione, quindi sì. Poi individualmente, diciamo, questo individualmente questi soldati prendevano i permessi, a volte permessi, e poi si estendevano e andavano a cercare i loro congiunti, chiaro. Arrivarono fino in Polonia e a volte, la maggior parte delle volte, non li trovavano, qualcuno lo trovò. Quindi una storia, ecco, ho detto prima che il libro di Blum non è molto affidabile, però lì una storia bella di questo che va a cercare la madre e riesce a trovare la madre e la sorella ancora vivi, c'è, insomma, è una, non ho dubbi che sia vera, insomma, perché era basato su un'intervista, ma appunto un romanzo storico serve a questo, a raccontare belle storie, però non a raccontare la storia, ecco, però lì c'è una di queste storie. Della Brigata, sì, allora, no, io mi sono basato, ho studiato Abba Kovner limitatamente a quello che mi serviva a me per la brigata, quindi ho descritto che c'era questo incontro, lui fece questo discorso, molti, ci sono lettere dei soldati della brigata, dicono ah, abbiamo incontrato gli uomini di Abba Kovner, è stato un incontro molto emozionante, e, quindi sì, e poi c'è le relazioni degli uomini di Abba Kovner che dicono abbiamo incontrato gli uomini della brigata, però gli abbiamo chiesto di aiutarci nella vendetta, però loro sono un po' freddi, dicono no, ma come si fa, bisogna pensare ai profughi, cioè, poi noi siamo ancora, cioè, siamo in armi, siamo, cioè, se io mi allontano da qua mi prendo... Cioè, erano disertori se uno si allontanava senza permesso. Cioè, la disciplina era finita la guerra, ma la disciplina c'era sempre, quindi non è che potevano fare quello che gli pareva. Già organizzare queste spedizioni oltre frontiera per andare a cercare i nazisti richiedeva molta segretezza e la collaborazione dei, per esempio, dei quelli che, degli addetti alla manutenzione dei camion che dovevano ritirare indietro i chilometri e rimetterci la benzina, per non, perché sennò tutto andava giustificato. Invece un esercito precisino a quanto consumi. Quindi c'era, insomma, queste cose costavano molto lavoro. So che loro anche, insomma, hanno partecipato anche loro. Ecco, qui bisogna fare una distinzione quando dice la brigata è rimasta in Italia. Noi diciamo brigata ebraica e intendiamo la Jewish Brigade Group, di cui c'è questo libro sulla Jewish Brigade Group, sono i 5.000 della Jewish Brigade Group, che erano, che poi in realtà erano un po' meno, abbiamo visto 1.000 non erano ebrei, in tutto erano 3.000 ebrei e 1.000 non ebrei, che era la brigata formata per combattere in Italia, proprio addestrati per combattere in Italia. Poi c'erano tutte le altre compagnie ebraiche, le cosiddette compagnie tecniche. Non si chiamavano più Blugotti, una roba simile? C'erano i Lask, che erano quelli che portavano i camion, c'erano quelli delle autocisterne, c'erano... Allora, in Italia si chiama brigata ebraica tutto, però in realtà no, la Jewish Brigade Group, brigata ebraica, sono solo questi, l'armata combattente. Gli altri erano arrivati anche prima, qualcuno era arrivato nel 43, già nel settembre del 43 erano arrivati le prime, fra i primi sbarcati a Salerno o in Puglia, operarono molto in Puglia, c'erano compagnie tecniche, loro non combattevano, però si misero da subito a cercare di aiutare quei pochi profughi ebrei che riuscivano a trovare e stabilirono i primi campi. Il padre della Fiamma Niederstein era nella compagnia autocisterne, per esempio, era nella Alberto Niederstein, che poi rimase in Italia, conobbe la madre di Fiamma Niederstein a Firenze, si sposava, insomma, così, che quindi era nella compagnia autocisterne, per dire, quindi non era nella brigata ebraica intesa come i 5.000. Io in un sottocapitolo parlo anche degli altri, c'è un capitolo che si chiama Le altre compagnie ebraiche, in cui raccolgo le informazioni che si hanno nella letteratura, quindi le risistematizzo, specialmente la 178esima Trasporti, che poi si unirà alla brigata, alla Jewish Brigade Group, quindi ricostruisco tutta la loro storia, la loro ricerca per delle comunità ebraiche ormai distrutte, quella di Livorno sparita nel niente, quella perché insomma ho visto, ora qui non ho visto, ma ero a Gorizia prima di qua, ero a partecipare al festival Estoria, sono andato a cercare il quartiere ebraico. Tutto quello che ho trovato erano le pietre di inciampo, il quartiere ebraico è sparito e ci sono ancora però i ricordi delle famiglie che furono deportate. Certe zone sono state, cioè le comunità ebraiche di certe zone sono state cancellate. Come da noi. Noi abbiamo perso completamente una generazione. Cioè, prendi la parola. No, io sono contenta di aver... sono contenta. E grazie di esserci. Di essere qui e sono molto felice che lei abbia scritto questo libro e sono a nome della comunità ebraica la ringrazio. Grazie. E questo sicuramente entrerà nella nostra biblioteca. Posso? Sì, non lo so. Prego. Ci sono due domande. Allora, faccio in ordine. Sempre, lo facevo leggermente prima, c'era una gara di... Adesso mi prenoto. No, scusate, io porto il mio contributo perché a 7 anni io vivevo a Tarvisio e quindi ho avuto l'occasione di conoscere militari della Brigata Ebraica, anche perché il comando della Brigata Ebraica quando è arrivata a Tarvisio, che poi è arrivata subito dopo la fine della guerra, cioè al limite della fine della guerra, perché a Tarvisio fu liberata dagli inglesi che vennero da Udine, però non mi risulta che erano quelli della brigata ebraica, ma erano un'altra unità inglese. Poi arrivò la brigata ebraica che si stabilì nella zona. da quello che, cioè, allora, siccome il comando era alloggiato nell'albergo alla posta di Camporosso, che è una frazione, sì, di Tavisio, no? Ed era di proprietà di mia nonna e dei miei cosi, quindi prima del comando della brigata ebraica si era stato al comando dell'SS, sempre nello stesso albergo. E quella era una bella nemesi della storia, sì, così. Sì, esatto. E prima ancora era il convalescenziario dei ufficiali degli alpini che tornavano dalla Iulia, dalla Russia, feriti, o dalla Grecia feriti, era anche sempre questo albergo requisito continuamente perché era uno degli edifici più importanti della zona. Ecco, quello che volevo dire, io mi ricordo perché da bambino noi, cioè, la famiglia di mia nonna che ha dovuto lasciare l'albergo, la casa e tutto, eravamo alloggiati in una valle laterale, Val Martolo, che era la malga dei camporossiani e dei tarvisiani, e in questa malga arrivavano, io mi ricordo, ero bambino, con mia nonna che aveva due o tre casolari lì e delle stalle, e arrivavano le motocarrozzette della brigata ebraica a cercare formaggio e latticini nei vari casolari del probabilmente per i profughi, probabilmente per i... Ah, non lo so, per chi, che avevano due campi profughi lì. Solo che mia nonna nascondeva le forme più grandi sotto e lasciava fuori solo una mezza forma perché così potessero portarsi via quello. Cioè, perché non ce l'avevo mai. Ma pensavo le acquistassero, non le acquistassero. No, le acquistassero. No, tanto è vero, che siccome queste motocarrozzette arrivavano con molta frequenza, mia nonna incaricò mio zio cognato, che era il referente sloveno di Tarvisio ed era in contatto con le brigate delle brigate titine che avrebbero dovuto occupare la zona, no? E allora tramite questo mio zio andò al comando della brigata e gli dissero: non fate venire più le motocarrozzette in questa valle perché c'è mia cognata, per qui. E da quella volta nessuno venne più a disturbarci. L'unico ricordo che ho di questa presenza della brigata ebraica nella casa dei miei nonni è una coperta grigia con la stella di David, che ancora io mi ricordo di che l'ho tenuto, e poi ce l'ha ancora? Non so se deve essere sparita, ma comunque l'ho tenuta per tanto tempo. Per il prossimo 25 aprile. Non lo so, comunque io sono sempre stato un appassionatissimo di storie, per queste cose me ne sono tutte documentate e accertate. E in più era entrata nella stanza chiusa a chiave di mia nonna, qualcuno è entrato dalla brigata ebraica, e rovistando nella corrispondenza, nelle cartoline, aveva tagliato fuori tutti i francobolli austriaci, perché mia nonna appunto la zona era sotto l'Austria fino al 20, fino agli anni 20, e aveva tagliato fuori tutti i francobolli austriaci. Era un po' là. E poi una specie di quelle carrette che avevano abbandonato nel retro dell'albergo dove erano stati, e che io ci ho giocato su, perché ormai ero un ludere, ma ci ho giocato su ancora per qualche anno quando ero tra quelle parti. Ecco, comunque è confermato, siccome questi discorsi nel paese circolavano, era confermato il fatto che non li hanno fatti andare in Austria, nonostante che avessero promesso a questi qui, dice, per dargli uno stimolo, che dopo arriveremo in Austria, occuperete l'Austria, e pare, così vociferavano nel paese, io riporto delle cose, che alcune carrette nei primi villaggi oltre il confine avessero deliberatamente preso sotto due o tre passanti, senza, andando tirando dritto, quindi da quel momento lì il comando vietò a queste truppe di questa brigata di entrare in Austria. Ecco, sì, volevo dire una cosa, prendo l'occasione per dire una cosa su questo, cioè, sì, dopo, questa cosa della vendetta, lo so che noi vediamo con imbarazzo questa cosa della vendetta, tanto che nel libro descrivo che c'è stata una editing war della pagina di Wikipedia Italia, anni fa c'è stato un tentativo di inserire l'anacam nella voce Brigata Ebraica e c'è stata la editing war è quando la gente comincia a litigare su Wikipedia, uno aggiunge, l'altro taglia, e alcuni sostenevano che l'inserire un riferimento all'anacam nella voce Wikipedia della Brigata Ebraica fosse un atto di antisemitismo, perché si voleva fare il paragone fra i nazisti e gli ebrei. Chiaramente questo può essere giustificato dal fatto che, come ricordavi tu, c'erano gruppi della destra estrema che cercavano di fare questo paragone furbescamente, cercavano di... Però è anche il fatto che ci sia stato questo problema qui in Italia, che non c'è in altri contesti, cioè nella Wikipedia inglese o americana non c'è nessun problema a dire ci sono state delle vendette dopo guerra, forse segnala il fatto che noi italiani abbiamo un problema con l'idea della vendetta, cioè che forse perché siamo cattolici, cioè questo problema che la vendetta è sempre sbagliata, quando in realtà sì, certo è un sentimento negativo, un'azione negativa, ma in certi contesti è comprensibile, cioè la rabbia è comprensibile. Io ne parlo nel libro, cioè quando poi noi parlo della responsabilità dei tedeschi. Salviamo i libri. I libri prima di tutto. E salviamo lui dall'essere sepolto. È l'ultimo giorno di lavoro, mi si fa male. Ah. Non sia mai infortunio. Che la causa. Quindi staccato. Va bene, sì, va bene. Lo so, scusi. Ora. Continua. Dai, no, adesso. Perché si è tolto questa cosa. Beh, tanto la signora assicura. Non c'è nessun complotto, è stato completamente fortunato. E adesso non la parola al signore, forse la parola al signore, la vendetta va un po' analizzata, ecco. perché siamo però come l'ho detto è caduto una libreria, come dire. è un segno. Prego. Quanto tempo trovare? Prego, prenda i libri, ve li date a me, insomma. Ah, vabbè. Ecco. Grazie a tutti. Lei ci ha fatto capire il ruolo negativo degli inglesi. Non lo dica troppo forte, che io vivo in Inghilterra. Va bene, siamo in una quasi accademia, insomma, in una biblioteca. Penso che tutto risalga ai tempi di Lawrence d'Arabia. Gli inglesi erano quelli, manovravano in quel modo. Quindi niente di nuovo a Lawrence. Altra cosa, lei diceva prima che la brigata non ha potuto combattere in prima linea. No, un po' sì, però non quanto avrebbe voluto, insomma, sì, un po' di azione che fanno, però sì. Mi vedo costretto a dirgli chi stava in prima linea. Allora, io risiedevo allora a Siena, sarò molto breve, non farò la storia. E su quella direttrice c'era il generale Juin, il quale comandava truppe marocchine. L'ordine era questo: prima arrivava il generale Juin, poi arrivavano i neozelandesi, gli indiani, gli australiani, gli inglesi e ultimi gli americani, i quali bellamente sfilavano lungo i muri delle strade. Io abitavo proprio lì, li vedevo. Questo avvenne per quasi una settimana, scorrevano a piedi. Questo era l'ordine. Un'altra cosa, avete parlato di Edie Brooke, io c'ero anche, è una donna eccezionale. Si chiedeva, purtroppo non sono potuto intervenire quella volta, come mai un popolo colto come quello tedesco avesse sopportato un vero e proprio delinquente, perché questo si deve dire, senza reagire. Io sono stato proprio 15 giorni fa a Berlino, dove ho ancora degli amici, e questo argomento è stato trattato. Eravamo alla Humboldt e alla Frey. Loro davano questa spiegazione. Tutta la cultura tedesca, i prominenti, tutta la gente effettivamente molto colta considerava l'esperienza di Hitler con una durata di non più di un anno e mezzo, proprio per questo, perché il popolo era molto colto, non sarebbe stato sopportato. Però Hitler non era intelligente, ma era furbo. Cosa fece? Due mosse proprio da gioco degli scacchi. Si mise d'accordo con l'esercito dicendo: comanderete voi, io faccio fuori le SA, cosa che fu fatta. Seconda, si mise d'accordo con l'industria pesante tedesca, Krupp in prima linea. Queste due mosse gli permisero di durare un po' di più e di fare lo sfacelo che hanno fatto. Tutto qua. Sì, no, l'ottava armata era una specie di, veramente una legione straniera, c'era di tutto, ne parlo nel libro, c'era la brigata ebraica, appunto, rientrava in questo, no? C'erano i Gurkha, gli indiani, i brasiliani, c'erano i polacchi, quando nell'offensiva finale. Montecassino sono stati i polacchi, sono morti. Nell'offensiva finale a Cuffiano, mentre la brigata ebraica prende Cuffiano, sulla sinistra c'hanno la Friuli, che bisogna ricordare, quindi c'erano anche gli italiani, c'erano anche dei partigiani, perché la brigata di Von Bulow ebbe il raro onore di essere aggregato all'ottava armata. Arrigo Boldrini. Non Von Bulow, sorry, Bulow. Di Arrigo Boldrini ebbe il raro onore di essere aggregato all'ottava armata, perché si erano portati così bene che disse: vabbè, vi arruoliamo anche voi, e li misero con il Cremona. E sulla destra avevano i polacchi, che invece puntavano su Bologna, allora combattevano in Piavura, quindi andavano più veloci. Quindi erano parte di questa grande, impresa multietnica. Edith Bruch anche la cito, perché lei è stata a Kofering, ci sette alcune settimane, anche lei, quindi credo ne ha parlato in uno dei suoi libri, di passaggio. Era un pomposo terribile, non c'era una camera a gas lì, però 15.000 prigionieri morirono lo stesso per maltrattamenti, fame, malattie. Dovevano costruire gli aerei a reazione tedeschi, avevano costruito un gigantesco bunker, e loro dovevano costruire questi aerei che avrebbero, nell'intenzione di Hitler, rovesciato le sorti della guerra, ma la fabbrica nemmeno entrò mai in funzione. Posso solo aggiungere una cosa. Sì. Durante il periodo della guerra, io faccio di cognome Carli. I De Carli erano reputati a quei tempi ebrei. E quindi mio padre passò veramente dei guai, dovevo dimostrare che non era ebreo. Una cosa che a me già ragazzino sembrava assurdo: perché io devo dimostrare che non sono ebreo? E qui l'assurdità sulla quale molto spesso non si ragiona. Sì, come l'Italia non ha fatto ancora bene i conti, secondo me, con questa cosa. Io ne parlo anche nel libro, quando finisce la guerra e si fa finta, appunto, si crea il mito ben presto del cattivo tedesco e del buon italiano. Primo Levi non riesce nemmeno a pubblicare se questo nuovo, glielo rifiuta tra l'altro Einaudi, questa cosa io non cito Einaudi perché è vero, non si sputa nel piatto dove si mangia, però dico che sette case editrici gli rifiutarono il manoscritto. Dove non Liliana Segre torna e trova le amiche e gli dicono: oh, Segre, dove eri sparita? Cioè, cadendo. Quindi l'Italia non si prende nessuna colpa per quello che è successo, sono stati tutti tedeschi. E invece no, invece ci sono stati anche fascisti italiani, le liste erano state stilate prima, le leggi razziali ci sono dal 38, una vergogna assoluta, cioè con cui gli italiani, sì, poi negli anni 80 in poi si comincia a farci conti, e allora i monumenti, il binario a Milano, però ancora forse fino in fondo il mito del buon italiano resiste, e ancora i conti con quanto gli italiani sono stati, con quello che hanno fatto verso i loro cittadini, che erano una parte così, tra l'altro, integrata, cioè, l'ebraismo italiano era perfettamente integrato. Proprio così. La perdita è stata culturale, economica, perché erano tutti professori universitari, imprenditori. Avevano combattuto. Tutta gente anche che contribuiva tanto all'Italia. Verissimo. Intanto ci pensano, adesso glielo do subito, se tu, visto che abbiamo affrontato questo problema dell'ottava armata, anche la brigata ebraica però era multietnica, formata da gente che veniva da tutte le parti. Secondo il rabbino erano 54 nazioni, a me sembra un numero enorme. Io ho cercato di stilare questa classifica, a 54 non ci sono arrivato, però lui lo dice due volte nel suo libro, c'erano 54 nazioni, e lui dice che ci conta anche i falascia, c'erano addirittura i falascia. E poi vabbè, ucraini, inglesi, c'era veramente una brigata cosmopolita, sì. Buonasera. Buonasera. Hai giustamente prima sottolineato l'importanza della ricerca, che si traduce molto più facilmente poi quando c'è la forma cartacea e quindi anche più controllabile capire che cosa c'è scritto, la fonte, e questo si contrappone però con quello che sta succedendo naturalmente negli ultimi decenni con il web, dove effettivamente le informazioni sono molto molto molto spesso molto false, purtroppo non c'è un controllo e quindi ognuno è libero di scrivere quello che vuole e purtroppo la maggior parte delle persone non legge, lo sappiamo, purtroppo libri, ma guarda il web. Io volevo chiedere come vi difendete voi storici da questa cosa che sicuramente poi in futuro non credo che purtroppo migliorerà ma peggiorerà. Io ho avuto un esempio nel mio piccolo, non strettamente attinente al libro di questa sera, però io mi sono ritrovato uno zio partigiano all'interno, morto, fucilato dai nazisti o dai fascisti, questo non si sa ancora, all'interno di una lista di repubblichini su un sito, diciamo il più diffuso, diciamo più importante, sul web, al che io naturalmente ho scritto immediatamente per chiedere la fonte da dove veniva questa notizia, perché non do nulla di scontato, e mi è stato detto che purtroppo c'era stato un errore. Una lista con 10.000 persone dentro, posso immaginare che come c'è finito mio zio partigiano ci possa essere finito un mucchio di altra gente che non c'entrava nulla con la Repubblica Sociale Italiana. Quindi questo è un piccolo esempio per far capire come il web possa essere pericoloso, ma soprattutto nei confronti di voi storici che comunque avete spendete giornate, mesi di lavoro in archivi, documentandovi seriamente. E bisogna sporcarsi le mani ed esserci. E quando ho detto prima, gli storici italiani ancora fanno fatica a fare pace con l'idea della divulgazione, figuriamoci con il web, eppure bisognerebbe essere lì. E d'altronde però il web ha anche una grande potenzialità, ha rilanciato la storia, l'interesse per la storia, e io vedo le lezioni di Barbero sul web, centinaia di migliaia di contatti, sì. E questo è bene. Tra l'altro è un rilancio anche della lezione frontale, della tanto bistrattata lezione frontale. Ora noi nell'università in Gran Bretagna quasi non si fanno più le lezioni frontali perché si dice no, sono antiche, sono vecchie, bisogna fare tutti i laboratori, workshop, lavorare con i documenti. E però poi vedi che c'è Barbero e ce ne sono nel mondo anglosassone che si mettono lì con la telecamera davanti, proprio una lezione frontale senza nessuna interazione, e c'hanno la gente così, perché alla fine se la sai fare la lezione frontale è pure bella, insomma. Quindi il web è una grande opportunità, è un terreno di studio, come ho fatto in questo libro in cui analizzo Wikipedia e la Brigata Ebraica, cioè o i siti della destra come tendenziosamente cercano di infangare la Brigata Ebraica usando appunto l'anacamba. Quindi è un terreno di studio, è una grande opportunità, e certo è anche però un pericolo con cui bisogna avere e confrontarsi. Il tempo è poco, perché dobbiamo insegnare, dobbiamo scrivere, dobbiamo fare partecipare alle conferenze, però io ho un canale YouTube, anzi se vi volete scrivere Gianluca Fantoni, c'è un canale YouTube dove per esempio c'è del video analisi, lui ha citato prima di questo ho scritto un libro sul cinema del Partito Comunista Italiano, e ci sono alcuni video trailer o video analisi in cui ho preso alcuni film del Partito Comunista Italiano, quelli vecchi degli anni 40 e 50, e ci ho fatto delle analisi sopra. Ora i film sono in italiano con sottotitoli in inglese, le spiegazioni sono in inglese perché erano fatte per un pubblico inglese, però insomma penso che anche vedendolo lo capite. E poi ci sono delle video lezioni, per esempio, che ho fatto in collaborazione con i colleghi, cioè, nel mio piccolo sto con il tempo che ho. We have to engage the web, come dire, insomma, essere, insomma, interagire con il web. Speriamo che la moneta buona scacci quella cattiva, sì, a differenza della. Sono già le 7:35. Direi che siamo riusciti a fare la presentazione. Una cosa, c'è stato un plotone che si chiamava Middle East Command, un comando dove combatterono insieme ebrei di Palestina e arabi di Palestina, combatterono in Abissinia contro gli italiani e del 51esimo Middle East Commando nessuno parla mai perché nessuno ha interesse a ricordarlo, noi vero perché eravamo nella parte dei cattivi, e gli ebrei e gli israeliani, i palestinesi che non hanno interesse a pubblicizzare episodi di collaborazione che fra loro, e invece combatterono insieme sotto la stessa e combatterono anche bene sì. Allora, invitandovi ai prossimi due appuntamenti, domani per chi vuole alle 18 al Film Club facciamo il film vi presentiamo un film nuovo che è stato presentato quest'anno dopo 2 anni sul caso Moro. Si chiama Come è nato un golpe, con nato scritto tutto maiuscolo per far capire di che nato si tratta, il caso Moro, e rende pubblici una serie di documenti secretati dalla commissione Moro, che non devono per forza essere la verità, ma aprono comunque una serie di inquietanti interrogativi, e alla vigilia della festa della Repubblica abbiamo pensato che fosse, dopo che eravamo stati costretti per via del maltempo a rinviarlo, che era prevista il 9 maggio, chi vuole venire è il benvenuto, ovviamente. Ma dove? È al Film Club, in via Dottor Streiter, alle 18. E per quanto riguarda poi successivamente il 10 di giugno alle 18 al Bar Pippo 2000 Anfiteatro Arcobaleno, altrimenti sotto se piove, questa volta ci siamo attrezzati, e presenteremo il libro Il giudice Mussolini, dedicato al giudice istruttore che coraggiosamente istruì il processo per l'assassinio di Matteotti e cercò di opporsi e di sconfiggere, pur senza riuscirci, l'intero regime fascista. Il 10 alle 18 al Bar Pippo 2000. Questi sono i prossimi appuntamenti. Chi vuole tutto il giorno lo spazio Resistenze sarà aperto in occasione della festa della Repubblica, come ampio lo vogliamo tenere aperto, e quindi se venite a trovarci siamo contenti. Alle 11 e alle 16 è previsto anche la proiezione del film Bella Ciao. E abbiamo voluto invitarvi a tutti questi incontri, faremo degli altri con la collaborazione di Valeria Trevisan e di tutta la libreria. Volevo solo finire dicendo che abbiamo avuto diversi lutti in questi giorni. Boris Pahor ieri, oggi Carlos Muraglia, ma abbiamo voluto comunque che questa iniziativa si tenesse così come doveva essere tenuta, non solo perché in tempi così tristi di guerra e tutto è bene mantenere questi punti di vista che forse ci aiutano a vedere più lontano e a sperare di superare, ma anche perché questa cosa da cui è nato il libro che ha spiegato bene Fantoni, il libro, ripeto, è a disposizione lì, leggetelo, perché anche in alcuni punti veramente commovente e in altri anche divertente, perché nella prosa anglosassone c'è anche un certo sarcasmo, un certo humor che devo dire ho trovato molto, molto apprezzabile. Ma la presentazione di questo libro non è come dire asettica, non lo è mai nelle scelte che facciamo, ma è per portare un contributo anche alla mia associazione, anche alle comunità ebraiche, perché questa frattura che così tanto male fa a tutta l'Italia democratica sia finalmente superata in bene, nel senso che abbiamo indicato. Grazie a tutte e a tutti. A presto.